Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e viva tocca a noi, sono le 11:12, noi ci siamo tutti, abbiamo Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, abbiamo Laura Vanossi in redazione e come sempre il nostro sommario, andiamo a sentirlo insieme. L'età del piede, trapianto da vivente, un gesto d'amore, un'opportunità di guarigione. Se alla sera le scarpe sembrano strette, segui i nostri consigli. Sì, oggi, cari amici, dal sommario l'avete intuito, parleremo di piede. E io inizierei a chiamare per nome le nostre dita, così le salutiamo. Sono alluce o primo dito, illice, trillice, pondolo, imellino, ominolo. Oggi partiremo proprio da loro, ma seguendo l'anatomia del piede scenderemo sino al tallone, passando per la pianta del piede. Avremo tante cose da dirci, perché i piedi sono un'articolazione molto complessa, formata da più di 30 ossa, tendini, nervi, muscoli. Allora non perdete tempo, chiamateci. Oggi costruiremo proprio insieme la puntata, insieme a voi e ai nostri esperti, tenendo in considerazione tre variabili: la prima, la forma; la seconda, l'età; la terza, il tipo di lavoro. 824 0024, i messaggi come sempre al 349 238 6666. In linea con noi oggi abbiamo il dottor Omar De Bartolomeo, specialista in ortopedia agli istituti clinici di perfezionamento CTO di Milano e ortopedico, pensate, della scuola di ballo teatro alla Scala di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno Carbone e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito. Mi sembra, se lei mi chiama buongiorno Carbone, di essere tornata a scuola. Bene, dottore, iniziamo dalla forma. In base alla forma delle dita, i piedi vengono divisi in tre tipologie, che sono l'egizio, il romano e il greco. Proviamo, dottore, a dare qualche indicazione, perché da casa i nostri ascoltatori possono dare un nome alla forma del loro piede e soprattutto capire dalle sue indicazioni quali sono i punti di forza e di fragilità delle loro estremità. Dottore, sì, iniziamo allora da chi vogliamo iniziare, dall'egizio? Beh sì, esatto, allora potremmo cominciare a parlare dell'egizio, che interessa diciamo il 40-50% di tutte le persone, nel senso che insieme al greco è uno dei piedi più frequenti. È un piede caratterizzato da una forma triangolare, quindi di solito il primo dito è più lungo degli altri, mentre il piede greco è un piede dove è il secondo dito più lungo, e deriva un po', potremmo dire, dalla mitologia, dove le dee appunto erano caratterizzate da questa sorta di potere magico di avere il secondo dito più lungo. Non si sa ben quale sia il potere, però questo è quello che ci raccontano. C'è poi un altro tipo di piede, il piede romano o sì, quadrato, dove tutte le dita hanno più o meno la stessa lunghezza. E la forma del piede, quindi il fatto di avere il primo dito più lungo, il secondo più lungo rispetto al primo, o le tre dita più o meno della stessa lunghezza, caratterizza un po' anche la patologia, legata anche a quello che è la volta del piede, se un piede è un po' piatto, un po' cavo, se il retropiede è quindi il calcagno è un po' valgo, quindi devia verso l'esterno. E potremmo dire quindi che anche in base alla calzatura, quindi potremmo anche discutere su questo. Assolutamente. Un piede è più predisposto ad alcune patologie, mi viene da dire ad esempio un piede egizio, quindi un alluce molto più lungo, una scarpa non idonea, potremmo andare incontro ad esempio a un volgismo dell'alluce stesso, oppure un piede greco con un secondo dito un po' più lungo del primo potrebbe andare incontro, sempre ad esempio per l'uso di una scarpa non adeguata, ad una problematica che si chiama dito a martello, dito a griffa. Sempre comunque bisogna tenere presente che non è soltanto la formula digitale, cioè il fatto di avere un dito più lungo dell'altro a predisporre ad una patologia, ma il piede è una struttura tridimensionale che con la sua interazione con l'ambiente esterno, quindi la calzatura, il tipo di pavimento, il tipo di uso che se ne fa quotidiano, quindi se uso un piede essenzialmente per camminare su una superficie piana, oppure faccio uno sport particolare, faccio uno sport su un terreno accidentato, mi viene a pensare al beach volley o alla pallavolo su terreno, sul parquet ad esempio, sono tutti ambienti dove il piede si adatta istantaneamente, quindi in base al tipo di attività, al tipo di scambio scarpa, il tipo di piede. Il mio piede può essere predisposto, può andare incontro a lesione. È importante poi il trattamento di questa lesione, perché lesioni non trattate adeguatamente possono poi sfociare in patologie più gravi. Insomma, si cade dalla padella alla brace. Abbiamo considerato, lei ha anticipato quindi la variabile lavoro-occupazione, che cosa ne facciamo insomma dei nostri piedi, importante sicuramente la calzatura, ma io inserirei anche un'altra variabile, l'età, dottore. Allora, l'età e la calzatura sono due fattori importantissimi. Allora, grazie all'esperienza appunto in scuola di ballo posso dire che io vedo bambini già a partire da 6 anni di età, quindi la propedeutica, e poi i ragazzi più grandi volti al professionismo. E l'uso del piede e il tipo di scarpa assolutamente influenzano lo sviluppo del piede stesso, sempre in considerazione anche delle modificazioni fisiologiche sia del piede, sia del ginocchio che dell'anca. Quindi possiamo dire che se noi non consideriamo bambini o ragazzi e poi adulti sportivi, il piede di sicuro ha un'influenza su quello che è la calzatura, la scarpa. Noi oggigiorno non usiamo una scarpa, possiamo dire, idonea al nostro piede, perché spesso abbiamo una scarpa col tacco troppo basso e quindi abbiamo anche problematiche legate ad esempio alla fascia plantare o problematiche anche alla schiena, oppure usiamo scarpe o col tacco troppo alto o addirittura troppo strette, ad esempio uno stivale quasi da cavallerizza, tanto per intenderci, che riduce il movimento della caviglia e magari con una suola troppo rigida, quindi impedisce lo svolgimento del ciclo del passo corretto, quindi con tutta la problematica anche tendineo di sovraccarico ad esempio articolare. Quindi se potessero parlare, dottore, questi piedi veramente li torturiamo. Quando si lamentano, mi verrebbe dire di gamba buona, ma comunque grazie ai consigli del dottor De Bartolomeo noi potremo anche provare a dare delle indicazioni preventive, se la calzatura, se l'occupazione, se lo stress a cui sottoponiamo i nostri piedi sono così importanti. Restate con noi, 824 0024, i messaggi 349 238 6666. Piedi piccoli, piedi grandi, piedi magri, piedi cicciottelli, piedi doloranti, ci occupiamo di tutti i tipi di piedi, egizi, romani, greci. A voi la buona novella. Una bambina ha ricevuto un grande dono dal suo papà, un rene. Non è la prima in Italia, ma è il primo trapianto pediatrico in cui viene eseguita una tecnica particolare di prelievo del rene. La bambina ora potrà condurre una vita assolutamente uguale a quella dei suoi coetanei. È successo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e in linea con noi abbiamo il dottor Nicola Capozza, responsabile dell'unità di chirurgia del trapianto di rene. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottor Capozza, stiamo parlando del primo trapianto pediatrico nel quale il rene del donatore vivente è stato prelevato con una tecnica particolare che si chiama hand assisted. Vorrei che allora lei ci aiutasse a cogliere gli aspetti importanti di questa tecnica di prelievo. Si tratta di una tecnica di prelievo laparoscopica che utilizza quindi degli strumenti ottici miniaturizzati che consentono di operare all'interno dell'addome attraverso delle piccolissime incisioni. E la laparoscopia non è certamente nuova, ma questa tecnica prevede l'uso combinato degli strumenti laparoscopici e di una mano dell'operatore inserita all'interno dell'addome del donatore. Ecco perché questa tecnica è definita hand assisted, cioè assistita o aiutata dalla mano. E questo consente una maggiore facilità dell'intervento chirurgico con tempi di esecuzione molto più rapidi della laparoscopia pura. Quindi, dottore, per il donatore questo significa una minore invasività con tempi di recupero e guarigione molto più rapidi. Mentre per il ricevente, quali sono i vantaggi rispetto alla donazione da cadavere? Sì, per il ricevente i vantaggi di una donazione da vivente sono numerosi. Innanzitutto la possibilità di avere un trapianto prima possibile, senza liste di attesa e senza necessariamente passare dalla dialisi. Inoltre il rene di un donatore adulto sano, consanguineo o anche non consanguineo, come avviene nella donazione samaritana, è sicuramente migliore di un rene di donatore deceduto. E si pensi infine ai tempi che intercorrono tra il prelievo e il trapianto, i cosiddetti tempi di ischemia, che si misurano in ore per il rene da cadavere e solo in alcuni minuti per quello da vivente. Dottor Capozza, la cultura dei trapianti da donatore vivente ha bisogno di crescere e credo che casi come quello di cui abbiamo parlato oggi siano un grande aiuto. Che dice? Ha ragione, io penso che c'è bisogno di una buona informazione in favore della donazione da vivente, che spesso non viene neanche proposta come opzione alle famiglie dei bambini con insufficienza renale. Il tipo di prelievo di rene che abbiamo eseguito pochi giorni fa può essere un ulteriore elemento nella scelta della donazione da vivente, in quanto offre un'alternativa alle tecniche chirurgiche tradizionali con minore dolore, un più rapido recupero alla vita attiva e anche con un risultato estetico eccellente, tutti elementi questi che non devono essere assolutamente trascurati. Dottor Capozza, io la ringrazio e le auguro una buona giornata. Grazie a lei, è stato un piacere. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci dei nostri piedi. Le statistiche dicono che l'80% delle persone, in maggioranza donne, soffre di problemi ai piedi. A volte un callo a farci vedere le stelle, altre volte il dolore si irradia nella pianta, altre volte ancora si localizza tra un dito e l'altro. Lo avete provato? Dove e quando? 824 0024, il nostro numero verde. Altra domanda che credo possa aiutare il dottor De Bartolomeo, che in linea con noi a darci indicazione, è: l'aspetto del vostro piede è cambiato? Pensiamo alle dita, di solito è l'alluce a deviare, ma cambiamenti possono interessare altre zone del piede, dottor De Bartolomeo? Le bastano queste due domande per darci una mano? Sì, assolutamente sì. Allora, come lei ben ha detto, innanzitutto l'alluce, che è l'articolazione, insieme di articolazioni che maggiormente va incontro a deformità o deformazione nel corso della vita, ma anche altre regioni del piede possono andare incontro a modificazioni. Ad esempio, come dicevo all'inizio, il secondo o il terzo, talvolta anche il quarto dito possono andare incontro a una deformità chiamata dito a martello, dito a griffa, dove essenzialmente il dito si ripiega un po' su se stesso. Nel dito a martello è interessata l'ultima articolazione, nel dito a griffa invece il dito quasi si ricurva a uncino, e la problematica è spesso biomeccanica, cioè di una alterazione nell'uso del piede, talvolta, come dicevo, anche l'uso di alcune scarpe come la calzatura un po' stretta o ad esempio un piede piatto o un piede cavo anche possono provocare questo tipo di patologie. E spesso il malato, non il paziente, scusi, non si lamenta tanto della deformità, ma della formazione di un callo assai doloroso. E il problema è questo, che spesso non si va da un medico, ma si va da quelle persone che trattano il callo ma non fanno nulla sul piede. Così come altre regioni che possono andare incontro a modificazioni sono le regioni appunto dell'avampiede, con tutte le patologie da sovraccarico, ad esempio dei metatarsali o dei sesamoidi. Quindi dottor, attenzione, lei ha sottolineato un aspetto mi sembra importante, il callo, no? La callosità, noi la eliminiamo, ma spesso è proprio un campanello d'allarme, perché la lingua batte dove il dente duole, esatto, no? Si direbbe se fosse bocca invece il piede, quindi attenzione. Senta dottore, ci torneremo, ma a proposito di cambiamenti, rassicuriamo subito le mamme all'ascolto: se i piedini di vostro figlio sono piatti, non preoccupatevi, cambieranno, dottore. Questo almeno nella maggior parte dei casi. Lanciamo un messaggio rassicurante che poi ci torniamo. Beh, il messaggio rassicurante è che quello che hai detto è assolutamente vero, nel senso che il piede piatto dell'adolescente è un piede legato ad una lassità, potremmo dire quasi costituzionale, di articolazioni e tendini, muscoli, quindi della struttura del piede, che si corregge. Tanto per fare un richiamo, con le bambine che fanno danza abbiamo visto con tesi di laurea, lavori scientifici, che l'esercizio quasi quotidiano, poco tempo al giorno, un'ora al giorno, modifica la pianta del piede, proprio che si vanno a rinforzare quelle che sono le strutture muscolari e articolari del piede stesso. Quindi il piede può essere corretto banalmente con un'attività ludica che preveda il salto, ad esempio la pallavolo, il basket, oppure la danza stessa, dove tra l'altro c'è anche un movimento importantissimo nella danza, che è il cosiddetto sostegno di caviglia, dove quindi la bambina o il bambino bambino impara ad avere un controllo propriocettivo, certo, della propria pianta del piede, quindi si corregge. Quindi le mamme devono stare tranquille, il piede è una struttura molto intelligente che impara a essere usato da bambino da quando il bambino inizia a camminare, quindi importante è a piedi, far camminare. Ecco, mi scusi, tanto per rispondere, sì, a un papà che ci scrive, sono Pietro, un papà di una bimba di 13 mesi, la mia domanda è, i bimbi devono camminare a piedi scalzi, dottore? Allora, a me camminare a piedi, allora a 13 mesi ovviamente, certo, poi scarpe è difficile da mettere, però tendenzialmente a me non piace dire a piede scalzo, nel senso che sì, il piede può essere usato scalzo, però non usiamo il piede scalzo su una superficie pianeggiante e quindi il piede non viene stimolato a sufficienza. Quindi banalmente un gioco che può essere fatto con i bambini di 13 mesi è quello di mettere ad esempio dei cuscini, dei tappeti, delle superfici ruvidi, dei giochi per terra, i bambini imparano a giocare con i propri piedi camminando ad esempio su queste superfici disconnesse, quindi il piede impara a restare in equilibrio tra virgolette, o impara comunque ad evitare stimoli tra virgolette fastidiosi per la pianta. Certo. Usare i piedi scalzi invece da adulti, comunque da ragazzi dai 6 anni in su, non è secondo me molto producente, proprio per questo motivo. Quindi il consiglio che io do di solito è quello di usare ad esempio uno zoccolino in legno. Questo perché il bambino dovrà imparare a non farlo scivolare via dal piede, quindi robustirà i muscoli. I vicini si lamenteranno un po', dottor De Bartolomeo, ma i piedi dei nostri bambini saranno salvi. Esatto. Adesso è cresciuto e fa l'attore, ha fatto musica, teatro, pubblicità, cinema. In televisione l'abbiamo visto in numerose fiction, dal Bello delle Donne a Carabinieri. Tra pochi giorni, più precisamente da venerdì 25, lo vedremo in Alice, opera prima del giovane regista Oreste Crisostomi, ma da quando era piccolo pratica con passione le arti marziali, che a vederlo, cari amici, gli hanno fatto gran bene. In linea con noi abbiamo Massimiliano Varrese. Ciao Massimiliano, benvenuto. Ciao, grazie. È attore, ballerino, esperto in arti marziali. Senti Massimiliano, anche tu avrai avuto i piedi piatti come tutti i bambini, no? Questo non me lo ricordo sinceramente. Bisogna fare una telefonatina alla tua mamma. Sì. Senti, se tu dovessi fare una classifica delle cose che ti piacciono di te, parlo dell'aspetto fisico naturalmente, a che posto collocheresti i tuoi piedi? Sai che molti di noi hanno un tabù del piede. Sì, ma diciamo che il mio piede, essendo stato sfruttato molto e molto allenato, diciamo che sono molto soddisfatto dei miei piedi, mi hanno dato grandi soddisfazioni. Senti, il secondo dito è più lungo? È un po' più lungo. È un po' più lungo, bene. Senti, sì. E per te che importanza ha il piede femminile? Adesso, soprattutto in questa stagione, noi donne amiamo, se l'estate si decidesse a venire, amiamo portare sandali, lo smalto. Ecco, per te il piede femminile, insomma, è importante? Ha una grande importanza, nel senso che come le mani sono un osservatore anche dei piedi, quindi un bel piede è sempre simbolo, diciamo, di un grande sex appeal. E quindi meglio curarli. Senti, torniamo ai tuoi, perché sennò poi... Sì. Tu che cosa hai imparato praticando arti marziali? Sì. Facendo il ballerino sicuramente hai qualche rimedio tuo personale, no? Per tenere il piede in forma, rispettarlo, non farlo affaticare, ma farlo lavorare in modo adeguato. Corretto. Corretto. Sì. Che ci dici? Io ho iniziato praticamente a 5 anni ad allenarmi, quindi il mio piede è stato sempre stato molto stimolato, nel senso sono stato molto a piedi nudi, però diciamo che non era uno stare a piedi nudi passivo, nel senso che allenandomi a piedi nudi su un tatami, su un tappeto, il piede veniva spesso stimolato in tutti i vari muscoli, in tutti i vari aspetti, nel senso che il piede sia nell'arte marziale che nella danza è fondamentale, ci sono proprio degli esercizi che si fanno per robustire la caviglia, l'articolazione, lo stretching stesso per il piede, e quindi diciamo che è molto molto importante questo. Massimiliano, allora andremo a vedere in Alice, dove tu tra l'altro sei Sandro, un omosessuale. Il film racconta un po' la storia della protagonista Alice alle prese con i problemi della vita. Sì, diciamo che Alice è una ragazza un po' chiusa in se stessa, e un po' un piccolo, un brutto anatroccolo, e arriva Sandro con tutta la sua energia, avendo anche lui però dei problemi, diciamo, affettivi, comunque una persona molto energica che l'aiuta a diventare cigno, quindi ci saranno delle scene molto molto divertenti, è un personaggio molto allegro, simpatico, bene, molto, molto divertente. Senti Massimiliano, grazie per averci imprestato grazie anche un po' i tuoi piedi, buona giornata. Sono anche un ottimo tramite d'energia da prendere dalla terra e trasmettere al cielo, quindi l'hanno usato anche per questo. Usiamoli allora, grazie Massimiliano Varrese. Oggi, cari amici, ci occupiamo dei nostri piedi. Se avvertite dolore, chiamateci 800 24 00 24. Siate pronti a localizzarlo, ma diteci anche se insorge a freddo o a caldo, cioè dopo il movimento o a riposo. Aggiungete anche un'altra informazione: i vostri piedi stanno cambiando forma? 349 238 6666. Abbiamo Silvia che ci chiama da Roma, sentiamo che cosa ci racconta. Buongiorno Silvia. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Io volevo soltanto sapere una cosa, ho un problema con il mignolo del piede destro che mi è stato detto da quando ero piccola che non è cresciuto il tendine, quindi come se tutti gli altri tendini fossero cresciuti, invece quello no, quindi il dito è accavallato. Sì. E non mi ha dato grandi problemi nel passato, però ultimamente, negli ultimi anni, mettendo scarpe con il tacco eccetera, comincia a darmi un dolore terribile, ma nel giro di 10 minuti. E quindi praticamente potrei andare con una scarpa sì, una scarpa no, perché non posso indossare determinati tipi di scarpe. Immagino. Ho visto un ortopedico, mi perdoni, ho visto un ortopedico il quale mi ha detto alzo le mani perché davvero non so cosa fare. Quindi la mia domanda è questa: cosa posso fare per un dito accavallato? Dottor De Bartolomeo, è possibile che un dito nasca senza tendine? Ma bisogna vedere, in teoria potrebbe essere un tendine ipoplasico non inserito correttamente, bisogna vedere anche con una radiografia se vi è presenza di tutte le falangi, bisogna un po' capire qual è il problema. Comunque in caso di una deviazione del quinto dito, si possono fare alcune cose. La cosa più semplice sul quinto dito, mi viene da pensare, per aiutare nell'imminente l'ascoltatrice, si potrebbe provare a vedere se il dito si abbassa, se il quinto dito torna quindi all'altezza degli altri dita, e se proprio bisogna inserire una scarpa stretta, ma può essere una scarpa décolleté o comunque una scarpa prettamente femminile, con un piccolo cerottaggio se il dito resta più giù. Sì. In alternativa bisogna vedere chirurgicamente cosa si può fare per l'ascoltatrice. Bisogna sempre tenere presente una cosa però: la chirurgia è definitiva, quindi se il problema è soltanto con quel tipo di scarpa, se il problema è invece un piede, cioè un problema funzionale per cui mi si creano ad esempio delle aree di sofferenza tra un dito e l'altro, quindi a livello della commissura tra il quarto e il quinto dito, dove la pelle appunto va incontro un po' a macerazioni, o una callosità o comunque un'ulcerazione sul quarto dito perché il quinto gli si sovrappone. Bisogna quindi vedere tutto, proprio il piede, il quinto dito, che problema dà al quarto e al piede. Ecco, non è il dito in sé, tutto quello che questo accavallamento comporta. Ecco, e non è solamente il mignolo che si accavalla, ci sono anche altre dita, no, dei nostri piedi che cercano di cambiare posizione. Noi abbiamo accennato all'allucevalgo. Innanzitutto, dottore, si può prevenire l'allucevalgo che devi avere? Assolutamente sì, l'allucevalgo dovrebbe essere prevenuto per quanto possibile già in età adolescenziale, quindi quando si inizia a usare effettivamente il piede, quindi dai 3-6 anni in poi, quindi correggere qualunque alterazione di appoggio del piede con la scarpa adeguata o, se necessario, un plantarino adeguato. Poi da adulto si può sempre prevenire, proprio perché bisognerebbe evitare, in base alla forma del piede, un determinato tipo di calzatura, ad esempio una calzatura molto stretta che costringe le dita ad accavallarsi, quindi ad uno stress meccanico durante la camminata sulla metatarso falangea del primo dito. Quindi la prevenzione deve essere eseguita tutti i giorni, essenzialmente avendo tra virgolette rispetto del proprio piede, quindi inserirlo in base alla forma nella scarpa giusta, saper eseguire lo sport nel modo corretto, quindi evitare. Ci sono delle attività sportive che funzionano un po' come prevenzione, parlo non tanto dei bambini ma degli adulti, chi inizia ad avere un alluce che tende a deviare può, oltre alla scarpa corretta, eventuale plantare, sollecitare il piede a dei movimenti in modo da arrestare un po' questa deviazione, dottore? Purtroppo le devo dire il contrario, cioè lo sport purtroppo potrebbe facilitare la comparsa del valgismo, un po' tutti gli sport, questo perché l'articolazione dell'alluce, la metatarsofalange dell'alluce è comunque un'articolazione molto sovraccaricata, sì. Se si pensa che ad esempio durante il ciclo del passo lo stacco, la spinta in avanti del ciclo del passo viene dato proprio dall'alluce, quindi tutto il trasferimento del carico va dato sul primo dito. In più alcuni sport possono predisporre, mi viene a pensare appunto alla danza, ma anche il golf ad esempio, dove si ha la rotazione del piede d'appoggio e quindi un sovraccarico, uno stress continuo sull'articolazione. Nella danza però è più legato ad esempio ad una tecnica non corretta, più che all'uso della scarpa da punta, ecco, tanto per intenderci. Nel calcio lo stesso, un trauma o anche semplicemente il fatto di correre. Insomma, questo povero alluce è il più grande, ha tutta la responsabilità sulle spalle. Andiamo ad Angelo da Como, ci occuperemo poi naturalmente, oltre che di alluce, dei problemi delle dita, anche della pianta del nostro piede, del tendine d'Achille. Angelo, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Io chiamo per mio figlio che oggi ha 27 anni, ha un problema del tallone valgo, tutti e due i piedi. Sì. No? Adesso ultimamente ha dovuto fare dei plantarini per alleviare un attimino un po' il disturbo, il dolore, sì. Che era particolarmente colpito quando praticavo lo sport, calcetto, tennis piuttosto che... Come ci ha anticipato il dottor De Bartolomeo, ci sono alcuni tipi di sport, ma insieme ad Angelo dall'alluce passiamo al tallone, dottor De Bartolomeo? Sì, si può fare questo parallelismo, possiamo dire, dalla testa ai piedi. Beh, allora, se ho capito bene, ha 26 anni, quindi è grandicello il ragazzo. È un uomo, allora, diciamolo. Esatto, è un uomo. Allora, il retropiede valgo, bisogna vedere com'è anche la pianta del piede, perché di solito il retropiede valgo si associa anche ad una sorta di piattismo del piede stesso. Comunque, a 26 anni... bisogna essenzialmente vedere quanto un plantare corregge il retropiede. È vero che nello sport questo atteggiamento del piede, ho parlato di atteggiamento non di patologia, può creare dei problemi, questo perché appunto, come dicevo, se oltre al retropiede valgo si associa anche a un piattismo del piede, di sicuro tutto l'apparato tendineo, quindi tanto per fare dei nomi, il flessore dell'alluce, il tibiale posteriore, quindi tutti quei muscoli interni alla gamba e quindi al piede hanno un sovraccarico, quindi probabilmente i dolori che il ragazzo sentiva durante il calcio o il calcetto erano proprio legati a questo atteggiamento di piede e retropiede che nella fase del passo e nella corsa si accentua, quindi il movimento chiamato ad elica del piede durante appunto la spinta o anche banalmente la corsa o il salto possono accentuarsi, quindi infiammano maggiormente tanto la pianta tanto questi tendini. Bisogna quindi vedere qual è la scarpa da calcio più idonea per questo ragazzo e se un plantare con una piccola accortezza di costruzione a livello anche del retropiede corregge l'atteggiamento e quindi migliora l'appoggio statico. Non è curativo, vero? Elimina, evita che ci sia dolore, che la situazione peggiori. Ecco, questo dobbiamo aspettarci da un plantare se è fatto su misura del nostro piede. Questo lo sottolineiamo sempre perché deve essere proprio come un abito cucito su misura. Elisabetta ci chiama da Pisa, buongiorno. Che cosa buongiorno. Succede ai suoi piedi, buongiorno, Elisabetta? Buongiorno. Niente, io da qualche anno che ho un dolore continuo quando cammino, specialmente indipendentemente dalle scarpe che porto, tra il terzo e il quarto dito. E l'esame ecografico ha rilevato un'alterazione precogena compatibile al neuroma. Sì. Però è stato apprezzato proprio anche una piccola cisti di 3 mm, 4 mm. Poi il mal di piedi, Elisabetta, salta proprio a punta in testa, non si sa come mai, dottor De Bartolomeo, vero? Che il dolore picchia in testa. Che cos'ha, Elisabetta? Allora, motormente la signora Elisabetta ha una patologia relativamente frequente quando si ha un'alterazione del piede che si chiama neuroma di Morton, sì. che è una, non è nulla di grave, è una, possiamo dire, una tumefazione, la creazione di una sorta di manicotto attorno a un nervo sensitivo posto tra un metatarsale e l'altro, sì. E che si manifesta appunto come dolore, il dolore che ha la base del dito può andare lungo il dito. Allora, ho detto che è una patologia frequente che si associa ad un'alterazione del piede, quindi molto spesso bisogna trattare la problematica meccanica del piede e poi andare a fare qualcosa eventualmente di più, perché è vero, da un punto di vista medico si può fare tanto, le infiltrazioni, chi no, anche la chirurgia, c'è chi lo rimuove e chi no, ma di sicuro correggere l'appoggio del piede è quello che è l'arco, perché in fondo il piede è una volta, quindi è fatto da tre archi. Se un arco si modifica, ovviamente un sovraccarico, se c'è un nervo vicino ad una struttura ossea dura che viene continuamente irritato, stimolato, ovviamente lui va incontro ad una patologia. Quindi che cosa dovrebbe fare la nostra Elisabetta? Allora, un plantare? Allora, esatto, più che un plantare, una visita, ad esempio, sì. Podologo, tecnico ortopedico o meglio ancora sarebbe un medico specialista nel piede, che quindi verifica effettivamente la forma del piede, se vi è una problematica di appoggio del piede, e da lì fa sì che su un ricetto ovviamente indica un plantare, che di solito è un plantare che tende a ristabilire la volta trasversa, quindi quello teso tra la prima e la quinta testa metatarsale, quindi alla base delle dita essenzialmente. Quindi quando noi ci mettiamo in punta di piedi appoggiamo il piede, tanto per per tradurre, esatto. Perché i termini sono tante volte un po' tecnici, però si chiamano quelle, ma noi li traduciamo volentieri. Io vorrei però adesso dare una risposta a chi, e l'avevo anticipato e sono contenta perché abbiamo giocato d'anticipo, mi parla di piedi non doloranti ma di piedi gonfi. Per questo io avevo giocato d'anticipo e avevo già contattato per noi il dottor Guido Arpaia, che è tornato a trovarci. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei. Direttore dell'unità operativa di angiologia all'ospedale di Vimercate. Allora, dottore, piedi gonfi, sarà il caldo? Non ce n'è, ma a volte uno è più gonfio dell'altro, specie di sera quando arriviamo a casa dal lavoro. Che cosa dobbiamo pensare? La calzatura o c'è un problema? Ma allora, quando cominciano i primi caldi, anche se adesso non ce n'è in effetti, i piedi possono cominciare a gonfiarsi in tutte le persone che hanno anche minime patologie venose. Non dimentichiamo che, riagganciandoci a quanto è stato detto sinora, alterazioni dell'appoggio del piede possono dare anche problemi di ritorno venoso non indifferenti, che vanno tenuti presenti in caso di ci siano questi disturbi. Perché non pompa adeguatamente, perché vero? Non pompa adeguatamente, perché la pianta del piede non pompa il sangue adeguatamente, quindi è una situazione che va tenuta presente nell'ambito della visita del paziente. I piedi gonfi, cosa fare? La cosa più importante è, come si è detto più volte, camminare, usare le gambe, se è possibile fare delle brevi corse, magari non nei momenti più caldi della giornata, nuotare, evitare i bagni molto caldi, perché sì. Questo può dare vasodilatazione. Muoversi durante il lavoro qualche minuto ogni 2-3 ore al massimo. Eventualmente massaggi, bagni freddi alla sera, docce fredde sulle gambe, quando serve, in caso di patologie venose un po' più conclamate, ma su indicazione del medico. Del medico, eventualmente anche farmaci per le vene. Però, le calze elastiche d'estate vengono mal sopportate. Lo so che lei vuole parlarmi delle calze elastiche, ma io no. Assolutamente, in questi casi sono l'ultimo dei rimedi. Va bene, dottore, grazie, buona giornata. La saluto, arrivederci. Abbiamo Fausto in linea con noi, ci chiama da Pavia. Fausto. Sì, buongiorno, io mi trovo in questa situazione surreale di essere qui con un piede nudo e me lo sto guardando. Oh, che piede ha Fausto? Un piede greco. Ho 47 anni, dall'età di 23 corro a piedi. Corro a piedi significa mi alleno tutti i giorni, faccio gare, 50-60 gare all'anno, quindi con un grande impegno quotidiano sì. di attività con questi miei piedi. Ora, in una recente visita presso il mio chiropratico che mi segue per la schiena, sì. mi è stato riscontrato una sorta di alterazione morfologica del piede, nel senso che a forza di usarlo questo povero piede si è un po' appiattato e le dita sì. a fianco del pollice, che sta nella sua posizione, che la luce, sì. stanno a riposo in una posizione un po' sollevata, dovrebbero stare più in linea, mi è stato detto. Sì. Io non ho nessun problema al seguito di questa. È solo che non lo riconosce più il suo piede, no, insomma, è cambiato. Mi è stato detto, guardi, che può essere foriero dei futuri nefasti sviluppi. Allora, io non so che cosa fare per porre. Allora, intanto lo tiene lì. Adesso è sempre nudo il suo piede? Il mio piede è qui nudo, solo sul nudo, sul nudo. Dottor De Bartolomeo, abbiamo un piede nudo di cui occuparci. Uno solo l'ha messo nudo, l'altro invece l'ha tenuto così, ma abbiamo un minuto per dare un consiglio a questo piede nudo. Ci provo. Allora, bisogna vedere anche se l'altro piede ha la stessa alterazione. Sì. Bisogna verificare il tipo di appoggio del piede, quindi verificare come tutti e due i piedi si atteggiano. Bisogna vedere se vi è una dismetria degli arti inferiori, come è il ginocchio, cioè se le gambe sono lunghe uguali oppure no. Sì. Bisogna verificare com'è il ginocchio, se è varo o valgo, e successivamente andare a capire perché un solo piede si è modificato. È diventato un po' anarchico. Esatto, esatto. Così come bisogna vedere com'è la corsa, cioè se corre sempre dallo stesso lato della strada avrà un sovraccarico più su un piede che sull'altro, quindi questo potrebbe spiegare, banalmente si potrebbe cambiare, alternare i lati. Così come se non c'è nessuna patologia, in base a quello che ho detto prima, di sicuro occorrerà modificare o la scarpa o il materiale della scarpa, perché come sa la scarpa da running è differente, si divide in tante sottoclassi, ed eventualmente fare un plantare che gli corregga la fase di appoggio e di spinta del piede. Perfetto, allora intanto rivesta il suo piede, l'abbiamo visitato, dottor De Bartolomeo, grazie. A voi. Voglio ricordarvi che oggi è la quinta edizione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Al centro della giornata il tema della qualità di vita. Oggi a disposizione dalle 8 alle 20 specialisti per rispondere ai quesiti più importanti. Sono 8 tra i più importanti ematologi italiani. Il numero è 800 22 65 24. Grazie, per oggi è tutto, vi aspetto domani dopo il GR delle 11.